Unità 2. Pronuncia. Traccia 19. 1. Come si chiama? Grassi. 2. Il suo nome, per favore? Recchia. 3. Mi dice il suo nome, per favore? Guerini. 4. Come si chiama? Diani. 5. Il suo nome, per favore? Pezzotti. 6. Mi dice il suo nome, per favore? Corona. 7. Come si chiama? Consonno. 8. Il suo nome, per favore? Abate.